Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare. La natura in fondo è benevola, fa sì che in realtà, a meno che non siamo dei frati trappisti, dei depressi cronici, delle persone che hanno già la testa sul filo della ghigliottina, preferiamo non pensarci, è la cosa migliore, è chiaro, è fatale, è ineluttabile, però non ci vogliamo pensare. Però c'è una novità, è una ricerca scientifica che oggi è esplosa in tutte le agenzie di stampa, anche in molti giornali, sì, perché fa riflettere in realtà. Questa nostra inconsapevolezza di fronte alla certezza che dobbiamo morire comunque ci permette di vivere una vita serena, anche se così mai non dovrebbe essere. Alcuni ricercatori finlandesi soprattutto, ma la ricerca era nata in Estonia, di un istituto di medicina molecolare, hanno messo a punto 4 biomarcatori, sono delle sostanze che abbiamo nel nostro sangue. Hanno fatto un'analisi su 17.000 persone, hanno aspettato 5 anni, in 5 anni di queste 17.000 ne sono morte 684, hanno dato un'occhiata, ve lo dico in maniera molto rozza, non faccio il divulgatore scientifico, a questi 4 biomarcatori e dalle loro mutazioni hanno capito che in effetti con un semplice esame del sangue potremmo capire con 5 anni di anticipo se dobbiamo morire. No, se proprio dobbiamo morire, nel senso che non è che dice vabbè sì, te lo dico così ti curi, no, è sicuro che noi dobbiamo morire. Mettiamola così, non vogliamo entrare in merito alla ricerca scientifica, non è il nostro mestiere. Immaginate che oggi sia possibile fare il test se si muore entro 5 anni. Voi lo fareste? Lo vorreste fare? Vi andrebbe di sapere se da qui a 5 anni sarete morti o preferite rimanere nell'inconsapevolezza? Prima domanda. 800 24 00 24. Seconda domanda. Secondo voi questo test, che potrà essere senz'altro utile, probabilmente perché su certe cause di morte si potrà anche prevenire, dicono tu fa 5 anni e muori di infarto, te lo dicono i 4 biomarcatori, dice vabbè allora faccio una vita riservata, tu fai 5 anni, non hai emozioni, non bevi, non fai nulla, stai tranquillo, ti guardi e tutti i test sono positivi, però il biomarcatore è sicuro, fra 5 anni muori, tu fai una vita da frate francescano per 5 anni, tanto poi muori lo stesso, vale la pena? Questo è un altro punto di vista, ditemi come la pensate. 800 24 00 24. Può l'artefice tornare su ciò che ha fatto? Perché? Quale sarebbe il tuo problema? La morte. La morte. Beh, questo temo che sia un po' fuori della mia giurisdizione, tu. Io voglio più vita, padre. Abbiamo i nostri limiti. Produrre un'alterazione nella evoluzione delle strutture di una vita organica è fatale. Un codice genetico non può essere corretto una volta stabilito. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità. Ma non perdurare. La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo e tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy. Guardati. Tu sei il figlio prodigo. Sei motivo d'orgoglio per me. Questa è una delle scene fatali di Blade Runner, quando Roy, l'androide replicante, più bello di tutti, più forte di tutti, ha capito che lui è una macchina e sta per morire. Il suo programmatore ha stabilito, perché ancora faccia parte di una classe di androidi non perfetta, che aveva in sé un piccolo problemino che gli avrebbe dato la sua fine. Una volta stabilito e capito da parte degli androidi che in realtà non erano esseri umani, ma gli erano stati indotti alcuni ricordi che non gli appartenevano, erano delle macchine destinate alla morte, come oggi certi elettrodomestici che noi li compriamo, sappiamo già che si sfasceranno entro qualche anno, perché sennò la catena produttiva si interrompe, quindi sappiamo esattamente che quando quel robot da cucina arriverà nel momento giusto, si fonderà, si romperà, non ci sarà cacciavite adatto a poterlo aprire per vedere qual è il disastro. Quindi Roy va dal dottor Tyrrell, che il suo creatore, dice: come? Io devo schiattare, non è possibile. E siccome una macchina molto avanzata, molto intelligente, ha molte nozioni, gli suggerisce alcune operazioni che possono essere fatte, cioè non è cambiando questo tipo di codice si può fare. Dice: no, no, non ci sono santi, tu schiatti, devi proprio morire. E si arrabbia al punto tale che gli infila i pollicioni negli occhi, gli fa schizzare le pupille e fa una strage. Perché? Perché ne avrà viste tante di cose, ma lui non vuole morire. Santo, buongiorno. Buongiorno. Abbassi la radio. Ah, sì, scusi. Ecco, no, questa voce d'oltretomba mi già dà il senso della sua morte fra 5 anni. Lo farebbe lei il test del biomarcatore? No, non lo farei, perché secondo me, se potrebbero servire per qualcosa di utile per un domani, per sapere... Ma diamo per scontato che non c'è niente da fare. Fa il test, tac, dice: santo, ma non, no, succede, lei fa 5 anni muore, cosa fa? Ci riderei sopra, perché... Non ci crede, cioè, no, ma è sicuro, parte... è scientifico, 17.000 casi, 684 morti hanno analizzato, è un test attendibile. Sì, ma come dicevo prima la signora, era scientifico che mia mamma doveva morire dopo 6 mesi per un carcinoma maligno allo stomaco e tutto, e poi dopo è durato 10 anni. Ma questa è un'altra cosa, è una diagnosi, è una diagnosi fatta però, su sistemi tradizionali. Qua mi danno la morte fra 5 anni, io esco attraverso la strada, passa il pirata dalla strada, mi fa sotto, e quindi... Cioè... No, ma per caso, adesso non giochiamo. Facciamo, diamo per un attimo per scontato che la scoperta scientifica, esattamente come ne parlano i giornali, poi magari domani la smentiscono, dicono: no, ma c'è un margine d'errore. Diamo esattamente per scontato che esiste un test, come il test che lei fa per la prostata, che le stabilisce che da qui a 5 anni, comunque, di infarto, di tumore, di morte accidentale, lei deve morire. Secondo lei questo a cosa serve? Può servire a qualcosa? Ma per una persona che non è emotiva o cosa, potrebbe servire, che ne so, dice, magari sistema tutti i suoi affari, tutte le sue cose. A 5 anni voglia sistemare affari. Appunto, può guardare il futuro, se no, se ha una fortuna, se la dilapida in 448, se ne va a puttane, se ne va a... Ecco, questo, diciamo, come diceva lei, sta cominciando a mettere degli elementi interessanti che ancora nei giornali non hanno calcolato. Ecco, diamo per scontato che questo diventa un test obbligatorio, come, che ne so, farsi il vaccino quando si è piccolini o farsi l'esame dei denti. Ecco, ci sarebbe uno sconvolgimento innanzitutto della società e dell'economia, perché tutti quelli a cui viene previsto che in 5 anni muoiono cambierebbe completamente la loro idea di gestione del loro patrimonio. Ma io penso di sì, perché comunque per loro è già la certezza che dicono: tra 5 anni, magari io ho 30 anni, mi dicono: tra 5 anni devo morire. E poi devo avere dei patrimoni ben consistenti per spendersi in puttane in 5 anni, voglia? Sì, sono d'accordo. Allora è meglio saperlo 6 mesi prima. Uno dice: ci sono quelli che partono via di testa, se non me ne frega più niente, faccio questo, magari ce l'hanno con la politica. Ma rischia, scusi, che fa la vita da nababbo un mese e gli altri 4 anni e 11 mesi da morto di fame per strada perché non c'ha più una lira, è triste. Però se uno dice: vabbè, la fatalità, tanto devo morire per forza, se no diventa un delinquente. Diventa un delinquente, dice: vabbè, tanto che me ne frega, tra 5 anni devo morire, che me ne frega, io vado a fare una rapina in banco. Lei, santo, ha messo degli elementi molto interessanti. Corrado però apre un'altra parentesi, che io ci tenevo che se ne parlasse, visto che questa è una radio a vocazione finanziaria e economica. Corrado, lo strumento del test della morte a 5 anni, innanzitutto buongiorno. Sì, buongiorno. Come potrebbe essere usato, mettiamo, da un'assicurazione o da una banca, secondo lei? Ma appunto, io appena ho sentito la possibilità del test, cioè, per come vanno le cose, specialmente in Italia, mi viene in mente di dire che se lo dovessero fare, vuol vedere che le banche lo impongono prima di erogare un mutuo. Ti do il mutuo, poi fai il test, perché se fra 5 anni muori il mutuo è quinquennale massimo. No, dico, ma già si fa fatica adesso per chiedere un finanziamento, che ti chiedono delle garanzie sicuramente. Se ti impongono pure di fare il test e vedono che comunque hai la possibilità di morire, cioè... Ecco, le metto un'altra provocazione. Metta che questo test debba essere obbligatorio al momento dell'assunzione. Un'azienda ti assume e dice: però devi fare il test, voglio sapere quanto duri, perché se duri solo 5 anni investo relativamente, dite, anzi ti faccio schiattare, tanto fra 5 anni muori. Non può essere anche questa una dei motivi di preoccupazione? Guarda, sicuramente potrebbe essere anche questo, però stiamo... Quando mi auguro che rimanga nella fantasia. Ecco, facciamo adesso sulla sua persona, se lei il test gliel'avessero fatto per farle uno scherzo, sua moglie, lei fa il test, gli prende un po' di sangue e gli mette un bel bigliettino sul piatto: caro, hai fatto il test, è 5 anni di vita, che farebbe lei? Ma sicuramente io penso che tutto quello cambia donna per prima cosa, vende tutto, sistemerei se i miei figli, giusto per sistemarli, e come io me ne andrei veramente. Magari se ti danno proprio la scadenza, che non so... Cioè, esatta, il minuto. Io aspetterei magari gli ultimi 2 anni, 3 anni per organizzarsi con le mie cose. Gli ultimi 2 anni... Pazza gioia. Come diceva quel signore, ne farei di cotte. Poi vedete come cambierebbe la società e come ci sarebbe una più felice equazione della propria soddisfazione individuale. Sì, 5 anni è brutto sapere, muori fra 5 anni. Però quei 5 anni te li organizzi come veramente vorresti. Quali sono i limiti a organizzare la nostra vita come noi la organizzeremmo se dovessimo morire a scadenza fra 5 anni? Alberto. Sono io, buongiorno. Sì. Io credo di vivere già questa situazione perché ne ho 74. 2 anni fa volevo fare un mutuo decennale per una casa e la banca mi ha detto di no, facendomi vedere le loro tabelle, e che prevedono per quelli nati nel 1940 l'aspettativa di vita 78,6. Lei le mani dove le teneva mentre aveva questa notizia? Non in tasca. Ho più di tanto, perché si può leggere da qualsiasi parte. Il libro dei fatti, ad esempio, riporta l'aspettativa di vita di tutti i paesi. Io ho questo vizio di guardare le statistiche e mi sto già organizzando. Per sua fortuna c'è gente che muore anche molto giovane, per loro sfortuna, quindi bilancia la statistica. Sono in piena attività lo stesso, parlo di piena attività lavorativa. No, ma lei può, certo, tutte le attività, non si vergogna. Vivo normalmente, quando parlo ho sempre questo, ma mancano ancora 4 anni e 6 mesi. Quanto le rimane quindi lei da vivere secondo la banca? All'assicurazione, alla banca 4 anni e 6 mesi. Quindi per lei il test è inutile, come se l'avesse fatto sei mesi fa. Me l'ha già fatto la banca, perché mi hanno detto che per loro prevedono questo, e se lo prevedono le banche e le assicurazioni, penso che siano più attendibili di qualsiasi. Quindi testa. Abbiamo il primo soggetto che in realtà ha provato l'esperienza di questo esperimento scientifico fantastico di cui oggi parla nei giornali. Il nostro ascoltatore, praticamente da un funzionario della banca che era andato a chiedere un finanziamento, ha avuto esattamente il referto di questo test. E tu tanto muori fra 5 anni, mi dispiace, io non ti do una lira. Melog, cronache meridiane. Chi sei tu? Sono la morte. Sei venuto a prendermi? È già da molto che ti cammino a fianco. Dammi ancora del tempo. Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua. Tu giochi a scacchi, non è vero? Come lo sai? Lo so, l'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende. Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco. Forse anche la morte può commettere un errore. Questo è un altro grande azzardo. Film del 57, il settimo sigillo di Bergman. Il crociato che torna dalla Terra Santa incontra la morte. Non è un bel momento, però può farsi una partita a scacchi con la morte, quindi diciamo quella data può essere forse in qualche maniera procrastinata. Non può esserlo per chi fa il famoso test dei 4 biomarcatori inventato dai finlandesi e dagli estoni, che su 17.000 persone hanno stabilito che esiste la possibilità di stabilire scientificamente che fra 5 anni si morirà dal momento che fai il test. Muori fra 5 anni? Sì, no. È questo. Questo comporterà dei sconvolgimenti socio-economici, questo almeno stanno dicendo i nostri ascoltatori. Silvia. Buongiorno, dottor Nicoletti. Sì, farebbe il test? Sì, lo farei subito. Anche perché se va bene sta tranquilla per 5 anni. Sì, e se va male vivo ogni giorno come fosse l'ultimo. E perché non può farlo adesso? Sì, perché si cerca di farlo tutti i giorni comunque. Questo detto, vivi come fosse l'ultimo giorno, si cerca di applicarlo, no? Eh sì, ma se lo applicassimo veramente, Silvia, lei non sarebbe lì al telefono mesta a girare il ragù nel pentolino e non sarei qui a lavorare, ma saremmo entrambi magari a correre sulla spiaggia nudi su dei cavalli bianchi, che ne so, queste cose qua. Certo, oppure farei la stessa cosa che stiamo facendo, però proprio con la gioia nel cuore, perché è l'ultima volta che lo faccio. Vabbè, quindi tutto sommato anche lei è della corrente di pensiero che il test serve, che finalmente si vive appieno la vita, la viviamo parzialmente, superficialmente, straccamente, nell'illusione che sia eterna, almeno il test ci dà un punto di scadenza, quando sappiamo la nostra scadenza viviamo bene. Samuele. Sì, buongiorno. Sarebbe un disastro per l'economia italiana. Mi faccia capire meglio, che è un campo che non conosco bene e lei può aiutarmi. Cosa accadrebbe nell'economia italiana se facessero obbligatorio il test dei 5 anni? Beh, tutte le tasse di successione perse. Fine. Tu chi sai chi che da qua a 5 anni muori, inizi a dare a intestare questo al figlio, quello alla suocera, quello alla nuora. Almeno provi a far dilapidare di meno il tuo... E il mercato del lavoro come ne sarebbe, diciamo, coinvolto? Sarebbe un disastro. Perché? Ma a mio parte penso che già tutti gli interinali che ci sono, loro hanno già la scadenza, quindi per loro non cambierebbe niente. È per chi invece è già assunto. Chi invece è già assunto, secondo me, non è impossibile renderlo obbligatorio. Sì, ma i capi delle risorse umane che fanno le selezioni, chi fa le selezioni, ecco, che criteri adotterebbe con il test obbligatorio dei 5 anni? Se è davanti un candidato che muore fra 5 anni, come lo impiegherebbe nel mondo del lavoro? Ma gli altri poi hanno la sicurezza e se muoio dopo 5 anni un giorno? No, diamolo per automatico, che sia scende, se no se mettiamo in dubbio il test finisce il gioco, diamo per sicuro. E lei c'ha una data, che è come avesse un display sulla fronte, c'è un countdown che dice mancano 4 anni un giorno, 4 anni così. Cambierebbero le normative sull'assunzione. Cambierebbero le normative sul lavoro, sì, le regolerebbero in base a questo test e tu secondo me avresti la vita parallela al tuo test. Non questo vede poi che ci sarebbero dei cambiamenti, le mutazioni sociali importanti. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io il test non lo farei, però 3 anni fa mi dissero che ho una vita media di 10 anni. Quindi altri 7 gliene mancano. Esatto. Beata lei, io ci metterei la firma subito, guardi. Prego? Ci metterei la firma subito, come dice, se vivi altri 10 anni, che culo, magari. Io ne ho 49, ma comunque la mia vita è migliorata. E cosa fa di diverso? Faccio tutto quello che facevo prima, la consapevolezza è diversa. Sì, ma quindi avevano già, diciamo, lei fa parte delle persone che hanno testato questi bioindicatori, perché come fanno a dire che fai? No, io non ho fatto nessun test, io ho una patologia in base alla quale... Ha una speranza di vita media di 10 anni, che esatto. Poi si possono sbagliare, lo sa, possono essere sì, molto... Sì, ma io sono molto fiduciosa a riguardo. Lei spera si siano sbagliati o comincia a lavorare come se quel giorno fosse proprio il giorno fatidico in cui si azzera il countdown e lei va? Sì, io vivo così. Ma c'è stato un cambiamento radicale nei suoi rapporti, nelle sue relazioni? C'è stato un cambiamento radicale in tutto. Mi faccia degli esempi, perché lei, diciamo, è l'esempio su campo di quello che potrebbe accadere dal punto di vista individuale, se questo test diventasse obbligatorio. Non è facile parlarvi perché è la prima volta che lo faccio, ma mi fa piacere. Il cambia il rapporto con i propri familiari, cambia il rapporto... E come diventa? Più disteso? Più sciolto? Più disteso. È come se una volta che si supera la paura di morire... Non si può più avere paura di nulla. E quali sono, diciamo, i vincoli che in realtà ci opprimono nei rapporti familiari e che non osiamo sciogliere o elaborare proprio perché sappiamo che abbiamo l'illusione che la vita sia eterna, dice, ma ci penserò. Lei li vede con più distacco? Io immagino, perché sono le cose che a me pesano di più. L'antico ricatto? Si fanno delle priorità, si fa una tabella delle priorità. E tutto quello che non è più prioritario viene praticamente tolto di mezzo perché non si ha tempo da perdere. Per cui si vive meglio perché si vive con uno spessore di valori. Quindi si ottimizza la vita, diciamo. Sì, la famiglia è diventata più importante, il lavoro meno, la ricerca culturale di più, il divertimento meno, gli amici superficiali non ci sono più. A volte si resta anche solo con la famiglia, però pochi. Quindi si cerca di vivere intensamente la vita, sì, il sapore della vita quotidiana. Quindi sarebbe, diciamo, un grande passo nella direzione dell'edificazione dell'umanità e del consumare in maniera intelligente il proprio tempo, sapere che sia la data di scadenza. Sì, anche perché si ha un rapporto con il denaro completamente diverso. Cioè? Ci si rende conto che abbiamo bisogno di molto meno. Quindi io, pensi, me la immaginavo completamente diversa, immaginavo una scelta di vita epicurea, di sollazzo continuo, di ricerca disperata del piacere. No, lei mi parla quasi come se, diciamo, fosse una sorta di regola monastica. Sono più austero, guardo meno il denaro, considero i valori, metto il divertimento in secondo piano rispetto alla famiglia. Si diventa eticamente ammirevoli in questa scelta. Questo mi sorprende molto. Carlo, sentiamo Carlo. Grazie Daniela. Buongiorno. Carlo. Senta, una cosa che si può molto facilmente fare in questa situazione è che finalmente qualcuno decida di fare la cosa giusta prima di lasciare questa valle di lacrime, testimonianze, vendette e tutto quello che voleva scaricarsi prima di morire. Questo è un altro aspetto, salda i suoi conti. E poi però c'è di contro l'ultimo documentario che ho visto, dove si parlava che nel giro di 100 anni, forse anche meno, si toglie la possibilità di morire. No, che rischia di andare a controbilanciare questa situazione. È impossibile, questo è impossibile. Sì, sì, il rallentamento, l'invecchiamento delle cellule e trasportarle in eterno quasi. Comunque, grazie. Come fare le vendette, dice il nostro ascoltore Carlo, è un momento per sanare i conti. Nel bene o nel male, muoio fra 5 anni, beh, pareggio i conti, non è che mi affido ai tribunali, che ce ne vogliono 15. Faccio di mano mia. È d'accordo anche Roberto? Buongiorno, salve. Sì, buongiorno. Sinceramente penso di no, sarebbe veramente un disastro sociale. A parte il Settimo Sicilio, tanti altri film hanno preso in considerazione questo evento, no? Tipo In Time, che è uscito da pochissimo, che parla di un tempo a scadenza per ogni persona. Sì. Ma se immagini lei se dovesse arrivare socialmente... Che poi si passano il tempo l'un l'altro, in una specie di orologino, infatti, di orologino che segna, mi dai un po' di tempo, ti do 2 ore, campa un po', bellissimo. Ma se immagini lei se dovessero in qualche modo mettere la legge in cui certificano che per ogni 5 anni la persona deve presentare per il posto di lavoro, per il matrimonio, certo, per tutte le attività sociali questo certificato. No, mi fa piacere una cosa, Roberto, che nessuno, per non cadere in luoghi comuni, ha citato la politica. Pensate, un politico eletto deve presentare il certificato che da lì a 5 anni perlomeno è vivo. E noi ci preoccupiamo tanto che rimanga vivo quei 5 anni. Ci sentiamo domani. Grazie, grazie Rocchetti, grazie Intonti.